Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani, ma qualche volta anche stranieri, in edicola in questi giorni. Come sapete, sempre andiamo un po' a curiosare per trovare non solo magari lunghi articoli o inchieste interessanti che vi possiamo consigliare, di cui vi possiamo consigliare la lettura, qualche volta anche ci accontentiamo di curiosità o notizie poco viste sulle testate quotidiane. Ad esempio, mi era completamente sfuggito che la Luna si stesse allontanando. L'ho scoperto sfogliando Geo di settembre. Dice: la Luna si allontana, ma si allontana un po' troppo. La notizia complessivamente è questa. Noi sappiamo che il nostro satellite si allontana progressivamente dalla Terra. Tuttavia, gli astronomi non riescono a capire perché si allontani un po' di più di quello che si aspettano. Vi leggo cosa scrive Geo. Il nostro satellite naturale si allontana dalla Terra di 3,5 cm ogni anno. E questo a causa dell'effetto prodotto dalla dinamica delle maree oceaniche. Tuttavia, anche considerando questo, rimane un incremento anomalo nella distanza tra la Terra e la Luna, un incremento anomalo che è pari a circa 3 mm ogni anno, un incremento appunto che rimane inspiegato. Ora c'è un fisico italiano, ci fa piacere dirlo, si chiama Lorenzo Iorio, ha un team a Bari dove studia da anni i segnali laser che vengono mandati dalla Terra verso i riflettori che sono stati portati sulla superficie lunare dagli astronauti delle missioni Apollo, misurando con precisione il tempo che impiegano questi segnali laser dalla Terra alla Luna e dalla Luna poi alla Terra, è possibile calcolare con esattezza la distanza del satellite. E allora, secondo questo fisico italiano, secondo Iorio, l'eccesso di allontanamento della Luna sarebbe da collegare a un fenomeno cosmico che è di ampia portata, cioè l'espansione dell'universo nel suo insieme. E allora, altra notizia sicuramente non troppo vista sui quotidiani, non troppo sentita: il ritorno in auge delle pecore australiane. Allora qui scomodiamo invece Il, come sapete Il è il mensile del Sole 24 Ore, le due lettere stanno per Intelligence in Lifestyle. Già da più di una settimana è in circolazione il nuovo numero, il numero di settembre. Questa corrispondenza da Sydney, di cui vi voglio parlare, di Stefano Gulmanelli, e ci segnala appunto che le pecore e soprattutto la loro lana tornano protagoniste in Australia. Ma perché vi parlo di pecore? Perché è una sorta di notizia che ha un che di economico, ma non solo. Infatti leggo da questa corrispondenza di Gulmanelli: dopo essere stata il fulcro indiscusso dell'economia australiana per decenni, sul finire del secolo scorso la produzione nazionale della lana era crollata per una caduta vertiginosa dei prezzi. Oggi invece, sull'onda di un rialzo che sembra non aver fine, perché nell'ultimo anno la lana di qualità ha aumentato il suo prezzo del 60% ed è la crescita più alta mai registrata, la lana merino, trainata dalla domanda incontenibile della Cina e dell'India, è di nuovo al centro dell'attenzione e dell'interesse degli allevatori australiani. Il numero degli ovini che sono stati allevati su scala nazionale, naturalmente il crollo dei prezzi aveva fatto passare negli scorsi anni da 163 milioni, che era il record, soltanto a 67, sta invece tornando ora a risalire. E c'è un altro aumento vertiginoso, quello della carne di agnello. La quotazione sul mercato internazionale, anche qui, ha toccato i 240 dollari australiani, detto in euro fanno 180 euro per capo. Bisogna sapere, per completare tutto questo quadro, che l'Australia fornisce complessivamente a tutto il mondo il 95% della lana merino di qualità. Tutto questo su il mensile del Sole 24 Ore, che trovate sempre in edicola nel numero di settembre. E allora, come ormai abitudine, vi abbiamo fatto ascoltare un piccolo estratto dal CD che anche questa settimana trovate in edicola, dedicato ai miti del jazz. Come sapete, già da diverse settimane, 17 per la precisione, il Sole 24 Ore propone questa collana Miti del Jazz, con un CD e soprattutto un libretto che accompagna il CD, in cui si raccontano un po' i vari protagonisti. Questa volta abbiamo ascoltato il pianoforte di Chick Corea e il vibrafono di Lionel Hampton, che eseguivano Sea Breeze, l'attacco di Sea Breeze. Il CD contiene 8 brani complessivamente, e Corea, come sanno gli appassionati del jazz, è forse il musicista in attività che ha ricevuto più onorificenze, voglio dire, nell'ambito jazz. Ha avuto 50 nomination ai Grammy, ha vinto 14 Grammy Awards e poi ha ottenuto anche premi molto prestigiosi, tra l'altro uno al Ruhr Piano Festival in Germania. Lì è stato il primo pianista jazz a ricevere questa onorificenza. E poi nel 2006 gli hanno conferito il massimo riconoscimento che si possa dare a un musicista di jazz negli Stati Uniti, è il NIA Master Award. Tutto questo, Chick Corea, lo trovate in edicola nella collana dei miti del jazz. E allora, abbiamo cambiato pianista, abbiamo cambiato pianoforte, come avete sentito siamo tornati al nostro stacco abituale. Vi voglio parlare di una ricorrenza curiosa. Come sapete, capita che nella stessa settimana si rintraccino degli argomenti comuni tra le varie testate, questo non è sorprendente, però è un po' più sorprendente forse scoprire che tra i settimanali femminili c'è una sorta di ricorrenza relativa alle tasse. Questo naturalmente è dovuto alla manovra di cui parliamo tutti i giorni, di cui ascoltate tutti i giorni nei vari GR, in Focus Economia, in Salvadanaio, in tutti i programmi che proprio qui a Radio 24 raccontano come sta evolvendo questa faticosa manovra di Ferragosto, che peraltro è ormai la terza manovra di questa estate tormentata. Ecco, si sono appassionati al tema fiscale anche diverse testate che abitualmente invece se ne occupano meno. Ne prendo due, ma ci sarebbero altre citazioni da fare. Chiedo scusa a chi non verrà citato. Donna Moderna e Vanity Fair, entrambe. Donna Moderna addirittura in copertina dice: tasse, pagare meno, pagare tutti, sostieni anche tu la nostra iniziativa quanto mai meritoria naturalmente. E Vanity Fair invece dall'altra parte, che fa una campagna che è già cominciata peraltro nelle settimane scorse per chiedere lo scontrino, una sorta di battaglia di civiltà, e poi torna anche con altri approfondimenti su il sommerso e le tasse. Allora, cominciamo da Donna Moderna. Tasse, pagare meno, pagare tutti è lo slogan, e si spiega all'interno che la cifra che lo Stato potrebbe incassare se ognuno di noi fosse corretto, versasse quello che deve all'erario, sarebbe di 120 miliardi di euro. Questa naturalmente è la stima, perché il sommerso come tale è un po' difficile da misurare. È una somma enorme, ricorda Donna Moderna, è pari a 3 volte la manovra finanziaria, e che poi chiede gravi sacrifici invece ai soliti noti. Il nostro giornale informa, ribadisce, Donna Moderna lancia una campagna per dire basta all'evasione fiscale, aderisci anche tu, è ora di un nuovo patto tra fisco e cittadini. Sono stati interpellati diversi esperti della materia, da Maurizio La Palma, dal Corriere da Maurizio La Palma, e tra l'altro appunto Franco Fichera, che insegna diritto tributario alla Suor Orsola Benincasa di Napoli, dice che più o meno evadiamo il 17% della ricchezza prodotta. L'economia sommersa, secondo il dato Istat, vale tra 255 e 275 miliardi di euro, e da qui appunto si ricava il valore che vi segnalavo prima. Se tutti pagassero, il calcolo è di Alessandro Santoro, che insegna scienze delle finanze a Milano Bicocca, se tutti pagassero l'erario riceverebbe ogni anno 120 miliardi in più. Naturalmente i motivi per pagare le tasse, che vengono poi esplorati anche dall'articolo di Dalla Palma sono noti, diciamo la teoria la conosciamo molto bene, forse è sulla pratica che abbiamo qualche difetto. Si tratta di fare un sacrificio personale per un interesse collettivo, in nome di un interesse collettivo, così sintetizza molto bene lo stesso professor Franco Fichera. E poi ancora, secondo il professor Santoro invece, non è vero, dice Santoro, che la maggioranza degli italiani evade le tasse. È vero che non le paga la maggioranza di coloro che ne hanno l'opportunità, insomma c'è una sorta di propensione a evadere. Come si può convincere la gente a pagare le tasse? Qui risponde la professoressa Fedeli, dice ci dovrebbe proprio un nuovo patto tra il fisco e i cittadini. Ora fermiamoci un istante su questo perché incombono le informazioni sul traffico, ma a volte davvero occupandosi di questa materia viene da pensare che ci sia proprio un problema di educazione, un problema di preparazione. Forse questa settimana noi abbiamo presentato nella nostra serie di libretti di domande e risposte quella dedicata al Galateo e forse davvero dovremmo cominciare a dire che è buona educazione pagare le tasse. Io prima di lasciarvi alle informazioni sul traffico vi faccio la domanda che troverete sul nostro libretto: secondo voi fino a quale ora della giornata è corretto augurare buongiorno? Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando di queste campagne per la fedeltà fiscale che si trovano su diverse testate, diversi settimanali femminili, riviste femminili che appunto non hanno di solito tra i loro argomenti di punta, tra i loro argomenti più in evidenza, l'argomento del fisco. E invece, complice il fatto di questa estate molto tormentata, caratterizzata dal varo addirittura di 3 decreti legge, se contiamo anche il cosiddetto decreto sviluppo, e poi la manovra bis di luglio e poi la manovra di Ferragosto, bene, anche il tema del fisco, il tema della fedeltà fiscale, dell'evasione fiscale hanno trovato spazio, molto spazio, anche sulle testate femminili. Abbiamo parlato di Donna Moderna, voglio parlarvi di Vanity Fair, che dedica innanzitutto buona parte delle sue lettere proprio a questo tema. I casi sono poi quelli noti: una lettrice lamenta che non si trovino le camere per uno studente universitario fuori sede in affitto in modo regolare, ma che si venga sempre richiesta invece una parte in chiaro, una parte non in chiaro, cose che purtroppo conosciamo. La lettrice si chiede: ma non c'è un modo per controllare questa forma enorme di evasione? Di recente la normativa è stata proprio modificata con la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, vedremo se poi darà i frutti sperati. E poi un'altra lettrice dice: in un bar acquisto un mezzo litro di minerale per 80 centesimi, dimentico di chiedere lo scontrino, la signora quasi inciampa per corrermi dietro e darmelo, questo succede nel Salento. A Milano invece succede questo: acquisto in un bar la stessa bottiglietta, stavolta chiedo lo scontrino, il cassiere me ne dà uno che aveva già pronto. La cifra è corretta, ma l'orario no, perché è lo scontrino di un cliente precedente. E la lettrice si chiede: ma perché non trovo il coraggio per protestare? Già, questa è una ottima domanda, spesso non troviamo il coraggio di protestare. E ancora, un'altra lettrice che invece ha un'esperienza opposta dice: sono tornata da una vacanza con la sensazione di essere stata in battaglia, ogni volta una lotta per avere lo scontrino, 10 minuti di lagne per una cosa che dovrebbe essere un dovere, e poi le facce offese. Acquisto un bracciale da 50 euro, vado alla cassa, voglio pagare con la carta di credito, panico nel negozio. La titolare arriva a dirmi: faccia la brava, se mi paga con la carta io ci rimetto il 3,5 di commissione e in più devo anche farle lo scontrino. Eppure ne ho visti in giro, dice, di poliziotti e finanzieri. A chiudere questa rassegna, la lettera di un signore che invece segnala quanto sia stato utile il Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto gli policlinici universitari, ospedali pubblici, strutture pubbliche in genere, per aiutare suo figlio che ha una grave malattia, una grave malformazione cardiaca, è già stato operato 2 volte. Dice: se è vivo lo devo al Sistema Sanitario Nazionale, in ultima analisi allora potremmo dire lo dobbiamo alla fedeltà fiscale, alle imposte che paghiamo, ohimè non tutti allo stesso modo, ogni anno. Ma questo è appunto la rassegna delle lettere. Più oltre, sempre su Vanity Fair, la segnalazione di un libro che è Soldi rubati, l'ha scritto Nunzia Penelope. Francesco Esposito l'ha intervistata, torna sulla questione del sommerso, e gli ascoltatori di Radio 24 sanno che tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8 e alle 13 va proprio in onda Paese Sommerso, che racconta queste vicende di evasione, questi casi appunto di evasione raccontati da Valentina Furlanetto. Dice Nunzia Penelope: ogni anno ci sono 120 miliardi di euro di evasione fiscale, come vedete poi le stime sono più o meno sempre di questa entità, anche se raramente collimano, e 60 miliardi, specifica Penelope, che se ne vanno in tangenti a causa della corruzione. Fanno 180 miliardi ogni anno, in 10 anni 1800 miliardi, cioè l'intero stock del debito pubblico italiano. Ancora, prosegue Nunzia Penelope, basterebbe ridurre il 10% le voci dell'economia sommersa, buco nero che secondo appunto Penelope vale in tutto oltre 400 miliardi, e il pareggio di bilancio nel 2013 sarebbe assicurato senza sfiorare le tasche di chi già paga le tasse. Quanto ci costa tutto questo? Le chiede Francesco Esposito, sempre su Vanity Fair. A causa di chi evade, ogni contribuente in regola paga 3.000 euro all'anno in più, e i lavoratori dipendenti hanno pagato per questo 850 miliardi di tasse in più negli ultimi 30 anni. Allora, forse è il caso di alleggerire un pochino gli argomenti. Vedo Peter Bescapè, per nulla contento, essendo lavoratore dipendente dall'altra parte del vetro questa mattina, mi aiuta a essere in onda, per nulla contento di scoprire che paga un po' di più per colpa di qualcuno che non riesce a pagare il giusto. Allora alleggeriamo con un signore che economista non è, Michele Serra, sull'Espresso, parla appunto di crisi, perché è la crisi poi in ultima analisi che ha reso così importante, così urgente andare a cercare di combattere l'evasione fiscale in modo più efficace. E vi leggo qualche brano che in qualche modo ci aiuta anche a trovare un sorriso pure su tematiche così non facili all'umorismo. Dice: il ricorso alla manovra economica, scrive Serra, quasi sempre annunciato con enfasi solenne e concorde dai giornali che intervistano i politici e dai politici che leggono le loro interviste sui giornali, lascia intendere che tra una manovra e l'altra l'economia sia una macchina senza guida. Il governo che effettua la manovra fa dunque la figura dell'eroe che in quei film catastrofisti si accorge che il pilota è morto, afferra la cloche e conduce in salvo l'aereo. Fa un certo effetto, continua Serra, pensare che il pilota morto, il governo, e l'eroe che salva l'aereo, il governo, siano la stessa persona. Volendo, viene da domandarsi di cosa ci si occupa al Ministero dell'Economia e di che si chiacchiera negli uffici economici dei partiti quando non c'è la manovra. E poi un altro passaggio che mi sembra molto efficace, sempre Michele Serra dice: dicono che c'è la crisi, ma i ristoranti sono pieni. Questo è il commento popolare classico che generazioni di italiani si trasmettono di padre in figlio. Dobbiamo dire che questo è assolutamente vero. Probabilmente venne pronunciato la prima volta all'epoca dei Gracchi. È un giudizio che risente della fame atavica. Riempirsi di maccheroni in trattoria viene considerato l'epifania del benessere, come ai tempi della commedia dell'arte, che del resto è poi il perdurante archetipo culturale italiano. Si presume che solo torme di affamati in strada e scene di miseria ottocentesca, da Londra dickensiana, potrebbero convincere l'italiano medio che anche due pasti al giorno non bastano a far quadrare i conti con la propria vita e il proprio futuro. Ma crisi, quella vera, vuol dire che una coppia di ventenni o di trentenni non può sposarsi perché non può permettersi una casa. Una cena in pizzeria, ovviamente, sì. Cioè, l'Italia non ha più fame, ma non ha più un futuro. Non è poi questa la vera crisi? Restiamo in qualche modo sulle questioni dell'attualità italiana, ma cambiamo completamente argomento. Su Geo, abbiamo citato Geo proprio in apertura di questa puntata, c'è un bell'articolo di Claudio Agostoni che fa una di quelle inchieste, diciamo, che sono davvero l'uovo di Colombo. Cioè, a volte abbiamo una cronaca che batte alla nostra porta, che spinge proprio accanto alla nostra redazione, ma non sempre riusciamo ad accorgercene. Ecco, Agostoni invece se ne è accorto e è andato a Baranzate. Voi direte, Baranzate non sembra un posto dove si possono trovare dei grandi spunti per scrivere un articolo, eppure a Baranzate, che è un piccolo comune vicino a Milano, c'è una via attorno alla quale vivono uomini e donne di oltre 60 nazionalità diverse. Quindi un miscuglio di lingue, culture, tradizioni, integrazione e mancata integrazione, che è qui proprio a due passi dalla nostra redazione qui di Milano, ma in fondo potrebbe essere anche una storia che possiamo rintracciare in molti paesi delle periferie, delle grandi città, delle banlieue, se vogliamo chiamarle così, italiane. L'articolo è corredato da una serie di foto molto belle, molto efficaci, in cui queste persone provenienti appunto da culture, da paesi diversi, vengono ritratte nelle loro case, talvolta con i loro abiti più tradizionali, e poi ci sono i racconti proprio di questo quartiere, di questa via. Ad esempio c'è il racconto del piccolo market che è ancora tenuto da italiani, sopravvissuto, dice intrepidamente, all'avvento dei grandi centri commerciali, gestito dal signor Tino dal 1981, che vende un po' di tutto, dalle pile al gagliardetto del Milan, biscotti del Mulino Bianco, sottomarche della Coca-Cola. Ecco, il signor Tino fa appunto, è simpatico con tutti i clienti, dice che ha imparato a dire grazie in molte lingue, in arabo, in albanese, in rumeno, in bulgaro, e poi per i senegalesi precisa: io posso dirlo sia in lingua wolof che in lingua mandingo, lo so anche in turco, cioè sta a dire grazie anche in turco. Di fianco, cioè a poca distanza insomma da questo market gestito da un italiano, c'è invece il market gestito da un ragazzo senegalese, che vende invece cose più dedicate appunto alle culture, alle persone che provengono dall'Africa. E proprio lì, appunto, proprio questo ragazzo senegalese dice che non gli piace essere definito ragazzo di colore, e un connazionale precisa che uomini di colore è una sfrontatezza nei nostri confronti, perché dice: di colore siete voi, noi in realtà nasciamo neri, cresciamo neri e moriamo neri, mentre voi alla nascita siete rosa, se vi spaventate diventate verdi, quando vi ammalate diventate rossi, gialli, e poi aggiunge: quando morite diventate pure grigi. Allora ditemi un po' chi è di colore. Questo il, come dire, la precisazione un po' risentita e un po', diciamo, da humor nero che viene portata da questo ragazzo senegalese. Una notizia positiva si ricava da questa inchiesta a Baranzate, ed è che secondo il giudizio delle persone che Agostoni ha intervistato, l'Italia non è un paese razzista. Precisano: perlomeno lo è solo un'infima minoranza, dice: l'Italia che ho conosciuto qui è poi la stessa che avevo letto sui libri, l'Italia di Colombo, di Marco Polo, fatta poi di gente che viaggia, che conosce il mondo. Ci sono probabilmente delle strategie politiche che hanno interesse a farla sembrare razzista. E un ecuadoregno, intervistato sempre da Agostoni, dice: mio figlio è sudamericano, va a scuola, si trova benissimo, spesso va a fare i compiti nelle case dei suoi compagni italiani, e naturalmente come se fosse uno di loro, non lo fanno sentire uno straniero. In Italia io non ho incontrato razzisti, solo qualche avete capito, però dice: quelli lì in realtà ci sono anche in Ecuador. E allora, con questa segnalazione da Geo su un'inchiesta a Baranzate, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio ancora Peter Bescapè questa mattina in regia, ringrazio Franco Piantanida che mi ha assistito nel preparare questa puntata, e un saluto invece ad Anita Panizza. Magazine 24, come sapete, ritorna domani alla stessa ora.